Un luogo, una storia. Di Daniele Biacchessi. I racconti del Villaggio Falca sono un progetto del Comune di Sesto San Giovanni per l'UNESCO. Si tratta della salvaguardia della trasmissione del patrimonio immateriale degli abitanti del villaggio operaio ampliato all'area della Corea e della Pelucca. La storia del villaggio viene raccontata dunque dai suoi abitanti attraverso le testimonianze, i video, le interviste, i laboratori e un web documentario di memoria con interviste realizzate da bambini e da ragazzi. Le campane della chiesa del villaggio suonano le 6 e mi devo alzare, altrimenti i miei fratelli mi rubano il turno in bagno. Intanto il villaggio si è già svegliato. C'è Martino che fa il pane. Lui inizia a impastare all'1 tutte le notti e alle 5 meno un quarto apre il negozio per dare il pane agli operai del primo turno. Quando sento la sirena, so che il mio papà sta per entrare in fabbrica. Lui lavora alla Falck, come tanti altri papà del villaggio. Mi ha detto che fa l'acciaio e che dove lavora lui ci passano i treni. C'è un carroponte e un forno enorme, molto caldo e molto rumore. La mia mamma lavora in ufficio. Usa una macchina con tanti tasti e manovelle che si chiama calcolatrice meccanica. Lei è molto fiera del suo lavoro. Fa i conti tutto il giorno e riporta le cifre sulle bollette. Dice anche che è fortunata ad avere questo lavoro, perché le donne che lavorano in fabbrica fanno molta più fatica. L'avventura delle acciaierie e ferriere inizia nel 1904 e il suo insegnamento crea un forte impulso all'industria siderurgica in Italia. Partiamo dal suono originale della sirena della Falca, che ora non si può più ascoltare. Dotato di officine meccaniche e treni per laminazione, lo stabilimento rimase sempre il più grande complesso industriale sestese, dando lavoro a circa 5.000 persone. Al primo nucleo, denominato Unione, si aggiunsero nel 1919 lo stabilimento Concordia, collegato al primo tramite un treno lingottiera, e nel 1920 la stazione per la distribuzione ai reparti produttivi di energia elettrica, proveniente dalle centrali della Valtellina e l'edificio Vittoria A per la laminazione. Nel 1943 l'arretratezza degli impianti causò un radicale processo di ammodernamento e razionalizzazione produttiva negli anni 50. La crisi della siderurgia e la crisi energetica dei primi anni 70 provocò la chiusura di alcuni reparti. Se nel 1980 i lavoratori erano 11.400, nel 1986 si erano ridotti a 4.800. Le quote produttive imposte dalla CEE aggravarono la situazione finché nel 1995 i forni della Falck cessarono di funzionare. Ma come era strutturata la fabbrica? Stabilimento Unione, 1906, affacciato sul viale interno. Dormitorio operaio, 1919, dotato di refettori e il dormitorio vero e proprio. Stabilimenti 1 e 2, successivamente riutilizzati come distillerie finché Eridania non li acquistò negli anni 60. Stabilimento Barelli, 1913, antica trafileria poi acquistata dalla Falck nel 1920. Stabilimento Concordia, 1916, con la più antica portineria Falck e l'accesso diretto della ferrovia. Laminatoio Nazionale, 1907, e Ornstein Koppel, 1913, entrambi edifici acquistati dalla Falck negli anni 20. Fonderia Attilio Franco, 1907-10, poi chiamato Stabilimento Vulcano in seguito all'acquisizione Falck. Villaggio operaio Franco Falck, 1922-1924, dislocato nella zona di Piazza Galli, deve il suo nome all'ingegnere Attilio Franco, che ne ideò il primo nucleo a partire dal 1908. Siamo dunque nel villaggio Falck, alle porte di Milano, a Sesto San Giovanni. È uno dei primi complessi residenziali ideati da imprenditori illuminati per i loro lavoratori, con case, servizi, luoghi di incontro e di svago. L'idea è quella di far nascere una comunità intorno alla fabbrica. Siamo la seconda B della scuola Einaudi e siamo qui per raccontarvi del villaggio Falck. Il villaggio Falck è un villaggio operaio edificato all'inizio del XX secolo, a Sesto San Giovanni, nei pressi di Milano. Venne realizzato come espansione del villaggio Attilio Franco, delle omonime fonderie sestesi, risalenti al 1908, e fu costruito a partire dagli anni 20 per rispondere alla continua e crescente esigenza di residenze per gli operai e le operaie degli stabilimenti Falck. Le prime abitazioni furono inserite in lotti separati e definiti da una viabilità interna e la toponomastica originaria. Via Bergamo, via Brescia, via Lecco, facevano riferimento ai luoghi della prima immigrazione di manodopera impiegata nelle lavorazioni siderurgiche. Il villaggio disponeva di una scuola materna, tra le prime in Italia ad adottare il metodo Montessori, una scuola elementare, una chiesa, una farmacia e diversi negozi. La scuola Montessori è il fiore all'occhiello del villaggio Falck. Lì si sono creati nuovi metodi di insegnamento che gli educatori spiegano ai ragazzi davanti alle loro telecamere. Allora, siamo nel giardino della scuola Montessori. Qual è stata la grande novità di Falck? Di portare una scuola dell'infanzia già qui all'interno del villaggio, il che vuol dire, bella seconda in Italia, di portare questo metodo che per allora era innovativo, era una grandissima novità, che appunto un oggettino quasi che doveva solo crescere, ma che già da piccola aveva un grandissimo valore. Allora, per noi oggi è abbastanza scontato, per noi educatori, per gli insegnanti, i pedagogisti, i vostri genitori, che i bambini imparano giocando. Allora non era così. Si pensava che il gioco fosse una cosa e apprendere, imparare altro. Per cui quando arrivò il metodo della pedagogista Montessori fu una vera rivoluzione. In breve tempo il villaggio Falck diviene una piccola città nella città, ai bordi della grande metropoli milanese che nel frattempo cresce a dismisura. Tra gli anni 20 e 30 completa un proprio villaggio per i dipendenti, lungo il Viale Italia e nelle vie Puricelli Guerra, Cantore, Cairoli, Acciaierie, Falck e Torino. Il villaggio dispone di una scuola materna, dove si insegna col metodo Montessori, secondo caso in Italia, di una scuola elementare e di una media, gestita da personale Falck. Nel 1939 la società realizza il quartiere giardino Villaggio Diaz. Negli anni 20 istituisce colonie estive e borse di studio per i figli dei dipendenti, mutue interne con agevolazioni per cure mediche, comprese quelle dentarie, e termali per i lavoratori. Nel 23 costruisce un campo sportivo. Le provvidenze della Falck superano spesso, per qualità e quantità, le iniziative socio-assistenziali messe in campo dallo Stato, sia in epoca fascista che in epoca repubblicana. La storia del villaggio Falck attraversa i primi del Novecento, il ventennio fascista, lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, i bombardamenti degli alleati, gli scioperi operai del 43 e 44, la resistenza, la repressione dei nazifascisti. E in mezzo ci sono le storie della grande storia raccontate nel bellissimo documentario di Memo Mi, La Memoria di Milano. La fronte alta, gli occhiali pince-nez, la pochette nel taschino, lo sguardo fiero. Giorgio Enrico Falck è il capostipite della dinastia imprenditoriale milanese, erede a sua volta dell'esperienza aziendale del babbo alsaziano Henri e della mamma Irene Rubini. Gli esordi lo vedono nell'alta valle Lecchese. Giorgio Enrico era, io non l'ho mai conosciuto, è morto nel 1947. Capì immediatamente che rimanere confinato in una valle sopra Lecco non portava sviluppo, e dopo questa trafileria che poi venne venduta nel 1927, lui iniziò diventando direttore generale della Redaelli di Rogoredo, e dopodiché fuse il laminatoio di Vobarno e Dongo, da dove proveniva, diciamo, la parte italiana della famiglia, e comprando i terreni a Sesto, dove c'era la ferrovia. A fine 1800 c'era stato il traforo del Gottardo, quindi l'espansione verso Nord Europa, da dove si riceveva le materie prime, e poi l'acqua, perché c'è ancora il Lambro. È il 1906. Sesto San Giovanni, una città che conta poco meno di 7.000 abitanti. Giorgio Enrico acquista i terreni, 12 ettari, dall'ingegnere Attilio Franco, titolare dell'omonima fonderia e del villaggio operaio. È chiaro che lo Stato allora era uno Stato dove non c'era il suffragio universale, non votavano le donne, e quindi era uno Stato che aveva altri tipi di problemi piuttosto che occuparsi della situazione sociale, anche se in parte lo faceva, per cui erano le aziende che dovevano in un certo senso creare del benessere civile, perché gli operai non portassero in fabbrica delle tensioni che avrebbero nuociuto a loro, all'azienda e alla produzione. Nel corso del tempo, per opera dei Falck, il villaggio sarà ampliato con la costruzione di nuove abitazioni per i dipendenti, a cui si aggiungeranno l'asilo a indirizzo montessoriano, le scuole di primo e secondo grado, la chiesa e dopolavoro, nonché colonie estive e borse di studio per i figli dei lavoratori Falck. Ed è qui, nel villaggio Falck, che vivevano tra gli altri gli operai del reparto bulloneria del Concordia, tra i primi a scendere in sciopero nel marzo 1943. Ed è qui, a due passi dalla chiesa, che vennero fucilati dai fascisti gli operai Luciano Migliorini e Pantaleone De Candia, ricordati da questa lapide. La loro memoria è parte della toponomastica del villaggio. Per la Falck e per i Falck, l'antifascismo non fu solo di maniera. I Falck poi rappresentano anche qualcos'altro, cioè che l'imprenditore è un portatore anche di capacità morali. Basta pensare a loro che i Falck hanno avuto nella Resistenza. Sono stati uno degli interlocutori principali di Mattei, che ha avuto un ruolo delicatissimo nella Resistenza, come è noto, una Resistenza clandestina, che era quella di raccogliere i soldi dagli imprenditori e di trasferirli nelle campagne o nelle montagne per finanziare le brigate partigiane. Senza i Falck gran parte di questa opera meravigliosa non sarebbe stata resa possibile. Anni tragici quelli del fascismo, diventati catastrofici allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Al contrario del fondatore Giorgio Enrico Falck, nominato senatore del regno, i due figli maschi, Giovanni ed Enrico, non aderiscono al fascismo. E mio padre, Enrico, non mise mai la camicia nera. C'è una famosa fotografia di una visita di Mussolini allo stabilimento Unione, in cui si vedono tutti in camicia nera e nell'ultima fila spunta una camicia bianca, era quella di mio padre. Mio zio Giovanni, detto Nanni, fu uno dei membri del Comitato di Liberazione Alta Italia e mio padre fu brevemente arrestato, scontò circa un mese a San Donino a Como. Durante la Seconda Guerra Mondiale, in particolar modo durante i grandi scioperi del 1943-44, il villaggio Falck divenne un importante punto di riferimento per la resistenza al nazifascismo, al punto da indurre una feroce azione intimidatoria nell'agosto del 44, quando due operai furono fucilati davanti al circolo San Giorgio e i loro cadaveri esposti come ammonimento. A memoria di questo tragico evento è stata apposta una lapide. Finisce la guerra e il villaggio Falck si amplia ulteriormente. Tra gli anni 40 e l'inizio degli anni 50 furono aggiunti 6 edifici e vennero eliminati gli orti. Nonostante le diverse epoche degli interventi edilizi, il complesso ha un carattere unitario, grazie anche alla coerenza nella scelta dei materiali e a un disegno omogeneo dei fronti. Attualmente è ancora in uso e abitato, sebbene alcuni servizi siano stati soppressi. Oggi il villaggio Falck è un quartiere operaio che sta trovando una nuova anima negli anni in cui le vecchie fabbriche non ci sono più e sono diventate nel tempo solo archeologia industriale. I ragazzi di questo angolo della periferia di Sesto San Giovanni, che confina con i comuni di Colonio Monzese e Cinisello Balsamo, portano le loro telecamere, incontrano gli abitanti, raccontano le loro storie e si raccontano. I ragazzi girano con la camera in spalle e scoprono anche angoli nascosti del quartiere, come alcune vecchie cascine. Cascina è bello, puoi stare da sola qualunque momento vuoi perché non ci sono tante persone. E allora puoi nasconderti dappertutto in un luogo tuo e stare lì tutto il tempo che vuoi. Quando eravamo piccoli continuavamo a girare in cascina, poi quando stavamo facendo il giro intorno a questo isolato abbiamo trovato una specie di sentiero da una parte, ci siamo passati, cioè praticamente come se non lo conosceva nessuno, si capiva che non passava di lì nessuno da tantissimo tempo, poi quando siamo arrivati alla fine del sentiero ci siamo ritrovati in un punto che molto in un punto molto evidente e abbiamo deciso che visto che non lo conosceva quasi nessuno per noi, abbiamo deciso di tenerlo segreto. Sì, e lo chiamiamo passaggio segreto. Sì, quando giochiamo a nascondino ci nascondiamo lì. Se c'è qualcun altro, se siamo solo noi due, è inutile. Perché sappiamo dove ci nascondiamo sempre. Cioè, solo quelli che vivono qua in cascina, che hanno tipo la nostra età, o più piccoli, o le mie sorelle lo sanno. Cioè solo quella di 10 anni lo sa, perché poi quelle più grandi no. Al villaggio Falck vivono circa 1500 persone, nulla rispetto alla grande presenza di lavoratori degli anni dell'immigrazione interna e del boom economico. Il comune di Sesto San Giovanni prevede un restyling del quartiere. Non ci sarà la nuova piazzetta, ma ormai è tutto pronto per la sua riqualificazione. Posteggi conservati il più possibile, nuova sede stradale, nuovi marciapiedi, soprattutto nuovo arredo pubblico, nuova illuminazione e, altra richiesta degli abitanti, le telecamere. è la nuova immagine di un quartiere che sta cercando oggi una nuova identità.